fine che ballare. E ce n'è uno, due di produttore, due fratelli, e poi c'è questo Sassari che si chiama Antonio Giovanni Caula di Sassari, 74 anni. Ma è morto? No, facevano assalti e portavalori, ma a quanto pare hanno fatto quello del cavò della Mondia appunto. Giavera e Chiviro Rusorigo, Giavera Rusorigo, per come è successo quella cosa lì, c'era la talpa, ma prima o poi passeranno anni, mangiate i bisteggeggiani, e avreste i bisteggeggiani. Allora, quello della Mondia ha 11 milioni di euro. E 11 milioni di euro puliti, soldi dei supermercati, puliti, non segnati, no, puliti. Quindi fai che erano in 10, un milione di euro a testa. No, vabbè, c'erano anche assegni. Comunque la maggior parte erano tutti i soldi, tutti i contanti. Prima o poi di Biglianesi. Hanno fatto una cosa un bel veloce, sparire subito, cioè prima che arrivasse la polizia. Break? Registrato il break, avanti. Buonasera. Ciao Daniele, avanti. Guarda qua, cosa dice? E cosa dice? Si sente il rumore del 60, ma quella radio è chiusa. Non è il microfono, è la radio che è chiusa, non stai spingendo niente. Cava. Ti ho detto io che quando mai schiacciò LC non si muove. Lo so Daniele, ma è la radio, non è il microfono. Sicuramente andavi bene anche con 80. La timbrica cambiava, però io mi sono accorto che non spinge con la radio. C'è da fare quei due ritocchini che mancano, capito? E la mia zocca. Ehi, la mia zocca, buono dopo. È il doppio la tua voce rispetto a quella di Daniele. E la mia Marazzulli. No, anche la tua va bene. Daniele c'ha qualcosa che non so che. E quindi qua, a chi si chiede? A chi si chiede? Lì io mani non ce ne metto. L'unica cosa che si può vedere è se, togliendo il coperchio, il trimerino del Michigin è al massimo. L'unica cosa è quella. Se è al minimo lo devi mettere al massimo. Solo quello. Poi io mani dentro per tirare su l'LC. Senza strumenti non si può fare niente. Non ne faccio più io di cagate, capito? Le ho fatte per anni queste cagate e mi hanno sempre criticato, quindi Daniele, non so cosa dirti. Tecnicamente non so cosa dirti. L'unica cosettina è aprire il coperchio e vedere se il trimerino che c'è dietro lo slider del Michigin è al massimo. Se non è al massimo, quello lo puoi girare tu col cacciavitino. Quello è una cosa normale. Però metterci le mani sulla radio senza strumentazione, io non ci ho più 20 anni, non ne voglio più. Tu immaginati che il 430 io l'ho mandato in continente per farlo tutto revisionare e rettificarmi tutte le resistenze variabili, figura di due. No, quello sì, no, se per esempio hai detto tu il trimerino sì, ma poi per fare altre cose giustamente senza strumenti non si può fare. Concordo. Scusa, ma con quanti watt stai uscendo adesso? Cosa? Adesso con quanti watt stai uscendo? Sono, aspetta, 10. Mettilo. Ah, però si riesce ad arrivare al di sotto dei 10 watt, 5, 6 watt. Aspetta, Guarda, così sono 5. Ecco, il making in come ce l'hai? Sotto la C. Prova a metterlo al massimo. Guarda, così è al massimo. Sotto la C è al massimo, mi anto. Mic sotto la C. Lo so, però magari non era proprio al massimo. È per quello che gli ho chiesto, mettilo al massimo, magari era un pochettino sforzato. Adesso senza premi la portante, dopo un po' fischia. No, è già modificata con l'LC. Ma infatti, livello di picchi di modulazione. Da 5 watt a quanto sale, Daniele? Allora, così riesco a farla andare intorno ai... 20 cla. Poi la 5 a 20 ha ragione Antonio, già aperta quella radio. Non puoi farci niente, sono sicuro che se la uso io quella radio la faccio schiattare, si l'MC60 si spacca in due. È la vostra voce, Daniele. No, è migliorata tantissimo, la modulazione non è più cupa, è bella forte, è più chiara, però pensavo andasse di più, ma sicuramente la tua modulazione, se lo uso io cambia, sicuramente cambia. Comunque, non ti costa niente, apri il coperchio, lo sai dov'è quel trimerino che risulta arancione con la resistenza variabile? No, non ce l'ho, me lo non sono neanche scordato. Quando lo apro poi dietro le slide, così è. Se stai attento proprio in direzione dello slide del Mickey Gain, lì proprio dietro, c'è un trimerino che risulta arancione, ok? Devi guardare se quel trimerino è a metà, se è chiuso, lo devi mettere tutto al massimo, ok? Stai attento col cacciavite, è buono perché altrimenti lo spacchi, piano piano. Se al massimo la radio non ce la fa niente, è la tua voce che non spinge, Daniel. Cava, perché l'altro mi ricordavo che spingeva di più, mi sa. Ma si sente che ce l'ha la spinta, Cla. Si sente che ce l'ha, no, non è un problema di LC. Vabbè, ognuno ha anche la sua voce. Sicuramente non li spinge, ma è per il tipo di voce che ha, non lo so. Daniele, l'altro che avevi, te l'ho fatto comprare io la Pinangelo, ti ricordi? Si conferma, infatti quello spingeva, perché mi ricordo che la LC, quando premeva il tasto della LC si muoveva, questo non va a mancarruccio. Ma quello che tu hai comprato da Pinangelo era di Claudio Sparviero, quindi quella radio me la sono fatta io per me, poi l'avevo lavorata a Pinangelo perché, buon'anima, perché mi si era attaccato come il polpo. Poi gli avevo fatto avere un 440, ok, e il 140 l'aveva venduto a te, però quella radio era tirata nel senso che la LC era bello tosto. Questa sicuramente sì, è aperta, ma non è aperta come deve essere, quindi non spinge. Ma sono sicuro, se tu ti vuoi togliere un dubbio, io te la faccio sentire da casa mia e non ce la farle niente a quella radio. Sono sicuro al 100%, come è già successo con altre persone. La radio non va, non qui, non là, mi dicono che esco male, dalla a me e tu ascolti e mi dici se è così. Ed è il risultato contrario, perché a casa mia la radio andava come vanno le altre, ok? Come andavano le mie andava quella. Quindi è solo un problema di modulazione, secondo me, di voce tua. Ma se ti vuoi togliere il dubbio, è una fesseria, togli il coperchio, vai direttamente a destra, sopra, dietro lo slider del Mickey Gay, c'è un trimerino di colore arancione. Guarda, se quel trimerino è tutto aperto, non gli puoi fare niente. Se è chiuso, lo metti al massimo, basta. Andava bene, già me lo tolgo quella curiosità per sapere. Verso il senso orario o antiorario, Cla? Orario era? Guarda, quello va da sinistra verso destra, devi portare tutto a destra, proprio aperto tutto a destra, così era Antonò. Vabbè, ma poi te ne accorgi, lo puoi anche aprire e dopo lo attacchi, lo accendi e lo giri tutto in un senso, se vedi che non sta uscendo di modulazione, se l'ago dello smitter vedi che non appicchi, lo giri al contrario, non succede niente. L'importante è che ci fai il cauto e quando ci fichi il cacciavite lo spegni prima. Vedi, noi a radio spenta queste cose si fanno, Daniele. Poi ti ripeto, trova una mattinata, un pomeriggio, vengo io, te lo faccio io lì davanti a te. Non c'è problema, Daniele, te l'ho detto, a tua disposizione, quando vuoi, io non... 10 minuti, un'ora te la dedico, di più no, però vengo lì e te la faccio, capito? E poi rifacciamo le prove. Dai raga, io non riprendo più perché devo andare in cucina, se no sto vai e vieni. Ci sentiamo in altre occasioni. Ciao Antonio, tanto se voi ci sentiamo dopo, anche a Luca, a te Antonio, riserva. Daniele lo stesso, ma per il momento devo staccare, ok? Ciao a tutti, riprendi Lugarie. Sì, allora dopo, grazie, anch'io mi alzo, che do la bestia. Avanti Antu. Bello io, ciao Cla, comunque sarebbe meglio che lo provassi tu a casa tua con la tua antenna per fare bene delle prove più, come si dice, più decise, più tecniche. Ciao Cla, ci sentiamo alle prossimine, dai, o più tardi. Cava, hai ragione Antu, ciao Cla, buon proseguo e buon tutto, dai, bianco per me che c'è una bassa, riprendete. Cava, è al turaghi su me che cazzo. Oh, gattino innamorato. Mi piace. Che personaggio. L'altro giorno sono entrato nella vecchia casa che c'aveva lui. Che carità. Ora c'erano tutti quanti i muri intonacati. No, è che sono andato a portare la bombola lì a... L'hanno chiamato della casa sua quella. Mi sembra che era lo zio, non mi ricordo cosa era, o nipote forse. C'era uno di quelli lì, c'era. Vabbè, qui erano tutti quanti persone ricche, e lui arrivava la famiglia. Penso che un gabbo non le funzionava. Vabbè, ma quello era nato così da piccolo, allora ci puoi fare, purtroppo succede. Caffa. Adesso grazie a me, Olga. Come io conosco gente sana che è peggio d'ezzo. E a chi non lo gioco. Quindi, non è che per forza uno deve nasce in macco, eh. Lo so già. Che ci vuoi fa? Luca! Allora, pronta la cena, è Luca. Luca se n'è andato. Luca se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. Ecco un'anima, senza un'anima. E capa. Di solito chi si apparecchi, tu lo buone a uno e devi bumpare, devi. Però che quello di Daniele, molto strana la cosa. No, non c'entra niente, ma lo utilizzavano per fare... non utilizzavano in mano laterale, quindi non gli è mai interessato niente la M. Quegli apparecchi sono nati per fare collegamenti a lunga distanza, non sono nati per lavorare in AM. Per l'AM si facevano delle modifiche, tutto qui, però magari era di, che ne so, di un piccolo panino qualsiasi, un qualsiasi radioamatore che lo utilizzava per fare collegamenti in USB o nell'USB, e quindi l'AM non gli è mai fregato niente. Io me ne sono capitati a me sotto mano anche da poco, addirittura che non erano neanche espansi in frequenza, che c'erano dei salti di frequenza, non erano neanche in sintonia continua, perché non nasce neanche in sintonia continua. Già lo so già, io a capo, già spingo, cioè... Cioè, sono degli apparecchi che spingono molto, la verità, quando sono allineati in una certa maniera. Lo so, però se uno li utilizza, non li utilizza in AM, non gliene può fregare niente. Allora, lui in mano laterale dà il pieno della sua potenza, anche quando non è stato mai modificato. Il discorso making in LC è per la M. In ogni caso il mano laterale del making in non funziona alle 140, quindi non ne puoi fare proprio niente. E per quel motivo che non si sono mai interessati, lo usavano il mano laterale, quindi non gli è mai interessato. Daniele non c'è, è andato via. No, volevo farle sentire il 430 e questo non è stato toccato. Per farle capire la differenza che c'è tra la sua e la mia, nel senso che anche senza toccarla io la porto bene per questione appunto di timbrica, di corde vocali, capito tu? Sì, claro, però qua non si parla di corde vocali, c'è anche qualche problema di amplificazione, però io gli ho detto poco fa a Daniele, quando tu sei andato via, che sarebbe meglio provarla con un'antenna tipo a casa tua, più che andare tu da lui, sarebbe meglio che lui venisse da te, poi quella è una cosa che dovete decidere voi, perché comunque queste radio così vanno provate con delle antenne, perché ripeto, tempo fa io ho avuto dei problemi con degli HF utilizzati con antenne così forticce, hanno necessità anche per spingere di avere una loro antenna, anche se non è stazionaria, però devono avere un modo per poter radiare. Sì, infatti si conferma così, ma io glielo ho detto, ma non hai, io te la faccio sentire, non è un problema per me. Approfittene ancora adesso che c'è l'antenna attaccata, perché poi sicuramente appena arriva il tempo buono la devo togliere anche tu, perché devo portarla via da qua, capito? L'ho lasciata per provare proprio questo 430, però ad esempio questo 430, il tecnico, sai quanti watt? Quando gliel'ho mandata aveva più di 100 watt in AM, sai che cosa ha fatto? Me l'ha chiusa, me l'ha beppa dentro e l'ho messa una resistenza. Non posso andare più di 40 watt, capito? Perché la casa, queste radio le danno per 40 watt in AM, addirittura anche 30 secondo la radio, capito? Perché altrimenti dice sfrutti troppo il finale e fai danno, mentre in FM e in SSB l'ha lasciata a 100 watt, in AM ha messo i watt sui, quelli era a casa. Infatti mi sono un po' adirato, poi alla fine però hai fatto bene, dai, io ce l'ho a 10 watt, c'è un picchio di modulazione a 30, è più che sufficiente, cosa devi fare con 100 watt? Se voglio 100 watt attacco un amplificatore oppure uso un altro tipo di radio, capito? Anto? È meglio lasciarle normali queste radio, perché durano un'eternità. Esatto, sì, claro. Beh, quelle montano come prefinale 2269, quindi in teoria quando gli dai 80 watt, quando lo dico 80 watt al massimo, con la potenza al massimo, la stai utilizzando al pieno, quindi fai il calcolo che a 80 watt comunque non è che fai 80 watt sempre con la portante premuta, non sei Paletto Falcone, quindi quando poi la regola 60 è ancora meglio, perché il finale comunque non, poi dipende sempre dal fatto che comunque col tempo la pasta si è, nel finale si è asciugata, non dissipa bene, i componenti comunque sono andati in perdita, però se tu gli fai una bella revisione dello stadio finale, nel senso che gli smonti la parte del dissipatore, lo ripulisci tutti i finali, gli fai bene le saldature, i controlli, le induttanze, i condensatori ceramici che siano messi bene, gli rimetti la pasta, lui io lo dico, gli ho 80 watt al massimo ed è un amore, quello è il 430. Sì, ma me l'ha detto. Beh, io mi ricordo quando ho preso il primo massimo, mi ricordo se era proprio il 430, sì, perché il 440 è uscito dopo, e stavo per restituirglielo a Mario Notari, ho detto, io voglio una radio che pompia, quella pompa in SSB, in AM c'ha 35 watt, a Giozento io volevo lineare, allora c'avevo lo Speedy, l'ho detto, col baracchino, mi ho comprato una radio per avere più watt, e per la pazza in tutto, dice no, poi consultando il vecchio Carlo CH23 di Chiaramonti, lui aveva visto queste modifiche che si facevano per aprirla, per darle più potenza, picchi positivi eccetera, e me l'aveva fatta, da lì avevo imparato a fare queste, mi aveva insegnato lui a fare queste cose, e le facevo, gli amici quando me lo chiedevano le facevo, eppure Rabini, tutti hanno imparato, si faceva la rasura, però inizialmente era così, anche ho capito, mi ricordo che era così, per quello che mi ricordo io, poi, però questi K, sì, 80, 440, 140, eccetera, lascia perdere 940 che non si poteva toccare, uscivano tutti dalla casa con anche il 940, cioè 35 watt in AM, se poi ne va di più vuol dire che è toccato, capito? Ma uscivano tutti con, da manuale, tutti 40 watt in AM, 100 in FM, 100 in SSB, io mi ricordo che era così a tutto. Sì, claro, per il semplice fatto che queste radio non sono nate per modulare in AM, sono nate per fare banda laterali FM, ma in determinati casi, anche perché se utilizzi in FM mezz'ora di fila che è per i finali, perché in FM spara tutta la sua potenza, non riesce a regolare niente. E 440 è regolabile in FM, capito? 440 in FM è regolabile, mentre 430, 680 e 140 no. Vabbè, comunque, stiamo bene, dai, non c'è problema, l'importante è che vadano bene, io guarda, sono soddisfattissimo di queste radio perché le uso da una vita. Questa, ti ripeto, 10 anni che l'avevo comprata da Walter, Diabolic, non mi ha mai creato problemi, l'unico problema che era stato, ho cambiato qua a Sassari da una persona il frequenzimetro perché si erano bruciati gli ultimi 2 decimali e basta, però lui stesso si è accorto che la radio era già molto in perdita all'interno, quindi mi disse appunto stai attento che prima o poi ti lascia a piedi, infatti l'ho dovuta mandare a fare tutta la cavetteria nuova, sistemare tutto, perché dovevo prendere la colpa per farla funzionare. Ma tu, dopo 10 anni, insomma, ne è valsa la pena, perché la radio è nuova, perfettamente funzionante, risponde bene a tutto. Quindi quando ci hai speso 100 euro per farle una bella revisione totale e cambiare tutta la cavetteria, morsetti e balle varie, è una radio sempre efficiente. Avanti, Bombolo. Capa, sì. Ora, gli ho abbassato un pochettino la potenza io, va bene, là. Sì, è così, cioè, dopo 10 anni queste radio vogliono portate dal medico, no, è un casino, non so quanto ti abbia preso, però ne vale sempre la pena. Guarda, io tra andare e tornare, praticamente tra viaggio di andata e ritorno e riparazione, ho speso 100 euro. Sono pronto a risprenderle, perché è una persona serissima, correttissima, soprattutto molto molto seria, ma è una persona che non ci specula. A me mi ha detto che ci volevano altre cose, mi ha chiamato prima, l'ho detto falle tranquillamente, non c'è problema, capito? È una persona molto seria, molto corretta e soprattutto molto ma molto onesta. Quindi tanto è vero che adesso hanno sparso la voce, perché mi ha detto mandami lavoro dalla Sardegna, ci sono un paio di persone che devono mandare delle radio e le vanno a me, gliele spedisco io, gliele mando io, gliele seguo io, eccetera, perché non trovano gente alla quale affidare la radio con tanto di serietà come c'è veramente questa persona, che tra l'altro a me mi hanno presentato, non la conoscevo, non sapevo neanche che esistesse, ed è già la terza volta che io le mando della roba mia personale da fare, ed è veramente molto molto corretto. Allora già va bene, dai, perché non se ne trovano di questi tecnici così, per riparare questo tipo di radio. KK, sì, mi ha mandato un messaggio Daniele, che quella resistenza lì variabile, mi ha dato la foto, gli ho confermato che era quella, quel trimerino lì era a metà, quindi adesso l'ho messo al massimo, vediamo se adesso spinge, dovrebbe essere quella, dai. Doveva essere quello lì il problema. Sicuramente, io guarda. Ora, com'è la radio adesso? Va bene, ma tu non puoi andare più di 1, 1 e mezzo con quella radio lì, tu. Perché io sempre così la tenevo. E anche tu ti mancano gli acuti, capito? Ti mancano gli acuti, è tonalità molto medio-bassa, ti mancano gli acuti come voce. Se avessi avuto gli acuti, quella radio, come dicono a Verghero, scherreggia forte. Mettiamolo più in cuore, così va bene. Diciamo che la voce mia non è male, dai, è media, non sarà, però già. Già va bene, Antonio, nessuno sta dicendo che non va bene, però c'hai tonalità medio-bassa, ti mancano gli acuti, ma non è la radio, è la tua voce, capito? Non è come la mia, io ho molti acuti, quindi qualsiasi microfono vado a prendere, come dice Giulio, io vado a portarlo rispetto a voi molto più alto, ma non è questione perché le radio sono meglio delle vostre o perché i microfoni sono meglio dei vostri, assolutamente, è una questione di timbrica mia personale, capito? È così, ma è un dato di fatto, già provato, e ti ripeto, un 140 che usava ad esempio Marco Condor, secondo lui non andava bene, l'ho preso io, gliel'ho fatto ascoltare e si è spaventato, dice allora è proprio un problema di voce, ed è così, la realtà è quella, non cambia niente. Vediamo se Daniele ha chiuso la radio. Daniele? Sicuramente Daniele sarà per riprendere, dai. È proprio un problema di voce, però io non sono mai andato male con le radio, alla fin fine di tutto, anche se mi manca quella tipo di timbrica, non sono mai andato male. Assolutamente no, Anto, assolutamente no, però se avessi avuto un po' più di acuti, capito? Invece c'è la modulazione un po' medio-bassa, tua, le corde vocali, se avessi avuto un po' di acuti saresti andato ancora meglio, ma ripeto, vai bene, non c'è problema. c'è altra gente che c'ha l'acuto come me, come Tino, come Natalino, che lo porta molto bene, K. Abbiamo questa timbrica un po' di acuti e come vedi la modulazione rimane con la tonalità medio-alta, tu c'hai la tonalità medio-bassa, ma va bene lo stesso, Anto, per carità, non te ne fare alcun problema, è solo questione di corde vocali, tutto qua. Vediamo un po' questo aspetto da Daniele e poi chiudo perché vado a mangiare. Daniele. E beh, se vuoi una trombetta, non vuoi te. Ma io volevo una trombetta, ci vuole. Oh, fra. Ehi, vabbè, dai, quello di Daniele è troppo basso. Ma non sono ammortizzatore. No, no, no, abbiamo già risolto. Aveva la resistenza variabile del Mickey Game, che non era neanche a metà, gli ho detto di metterlo a massimo, adesso sto aspettando che chiami, mi ha mandato le foto, l'ho seguito io su WhatsApp già, ha toccato bene, dai, prima di toccare mi ha mandato la foto, gliel'ho confermata e adesso vediamo come va, se va meglio. Daniele, come bisogno dei burilli di Vidi, no cazzo, blu, te lo chiudi il viroppo, appoggiamo il coperchio e basta, burro di Vidi c'è Bonelli, è così caro Antonio, è così, no, questa forse è l'unica, quella che ho venduto io di 4,40 lo stesso era molto molto spinta, che è quello che tu ogni tanto moduli, che mi hai detto esce un bel forte, no, la produttore, se quello lì ha quella che gli ho fatto avere io, questa non l'ho mai toccata io come Mickey Gay, come niente, assolutamente, il 4,30 io non l'ho mai toccato, com'era è rimasto, come l'ha revisionato, io l'ho acceso e va bene così. E va bene così, tanto non c'è bisogno perché lo porto abbastanza bene. Vediamo un pochino se rientra Daniele, se no riprendi tu fra. Io sto aspettando a lui a fare questi passaggi e poi vado a cenare. Daniele, finché a cazzo, anche non è buono il burro rosigillante. Madonna. Dai due corone di saldatura. Capo, oggi mi ha mandato un messaggio, e tu mi ti sei mai ci tendimi. Antonio Regè, hai sentito cosa ti ho detto? C'era il temerino chiuso? Sì, ho sentito, infatti sto aspettando anch'io perché poi devo andare a cena che mi stanno frusciando le orecchie. Anch'io, c'è mia figlia, c'è fame, e qua a cena devo andare anch'io. Sto cercando a Daniele così. Infatti ho commutato il K di nuovo per darle un controllo ben preciso. Avanti fra. Sì, sempre di saluto e me ne vado anche a mangiare. Sentiamo, ciao Antonio Rigello, ben ascoltato. Ciao Antonio, là all'altro, mio bombolo. E ciao anche a te Claudio. Buona cena quando la fate. Avanti, Antonio Bombolo. E capo, salutoni Franco, ce lo risentiamo alle prossimine. Avanti Antonio. Capa, ciao Fra, ben ascoltato, alle prossime, un abbraccio. Ciao Fra, cordialità e saluti, grazie per essere entrato a salutare. Antonio Rosè, tu stai usando il K adesso? Certamente che sì. Canonata, spinge bene, segnale 9,20 con picchi a 25 quasi 30. Ottimo per la truppa, lì com'è il mio segnale, visto che stai usando una radioserie adesso? Più 30. Anche tu più o meno sei così, dai. Io sto andando con 10 watt, 10 watt di portante bianca, modulati 25, ora, siamo intorno ai 25-30, dai. Il picchio già è positivo, lo vedo, già va bene, non gli tocca a nulla, quindi ha fatto un grande lavoro il tecnico, dai. Daniele, a Juve ci abbiamo fame, facci sentire, facci sognare. Quello se ne è dimenticato, comunque sì, più 20, modulati più 30, è un buon compromesso di modulazione. Sì, ma Tino me l'ha regolata ieri perché quando l'ho provata ha detto che era troppo alta, ce l'aveva 2,5, non mi ricordavo la regolazione, mi ricordavo quella del 4,40, questa non me la ricordavo. E quindi me l'ha fatto mettere a 2 e ce l'ho a 2, MC60, posizione in, amplificazione a 2, insomma, vabbè. già va bene, Daniele. Giamendi, vero, ma no, non mi risponde, no, qua sei 9 più 40, radio 5, Ocra. Tu sei 9 più 30 con questa, 9 più 30, segnale veramente molto molto alto, tu. Molto molto alto, complimenti, te l'ho già detto, vai molto molto bene, con il Galaxy sei leggermente più basso, ma mi fido più di questa perché chiaramente essendo arrivato dal laboratorio, K, guarda, ho anche abbassato Datemi un secondo di bianco. Ditele a Daniele di non andare via, che sono un attimo in cucina, devo subito. Ecchi me! Prova! Guarda un po', Clara, adesso è tutta aperta, l'ho girata al massimo, com'è? Ma quando Claudio Salviero ti dice le cose, tu perché non ascolti? A me da Antonio a differenza. Questo che l'ha già tirata delle C. Se è tirata delle C c'è chiuso lo driver, quindi adesso è un Kenwood, Daniele. Adesso sei tu, adesso è bellissima, fortissima come l'altra che ci avevi. Ed è sotto la Imicla. Aspetta che avete parlato in due, cosa hai detto Daniele? Ho detto che è sotto la I. Sotto la I, ah? Il drive. Mettilo sotto la C a vedere. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. È troppo alta così, vedi? Adesso si sente. Si sente. Questi esperimenti li abbiamo già fatti. Rimettilo sotto la I. Sotto la I abbondante però, e lascialo stare così col processore attaccato, sì, veramente ad hoc. Adesso posso dire che stai andando bene. Confermi Antonio Rese? Sì, va benissimo, è la modulazione sua di quell'apparecchio lì. L'LC si è visto che c'era, facevamo detto di fare quella prova, me ne sono accorto subito che era aperta. Ma sai cosa fanno? Aprono leggermente l'LC per dare un po' più di spinta e tengono quello driver che è molto importante, chiuso. E io la prima cosa che faccio sempre, quando ho avuto il 140, ne ho avuto tanti, vado prima ad aprirmi e a controllarmi se quello slider, quel trimerino è chiuso o aperto. Lo sistemo e poi riprovo la radio. Se la radio va bene non tocco niente, capito? Assolutamente, perché per toccare quelle altre cose lì ci vuole la strumentazione, per aprire quello slider lì non ci vuole niente. Sì, Daniele, adesso sei tu. Sì, claro, però tu devi considerare che chi apre l'LC lo apre per altre modulazioni, non per la M. Quello lì regola il Mac Gain solo in AM. Sì, ma infatti, ma molte che io ho avuto, anche in SSB o altro, erano una fesseria, cioè no, l'LC non andava proprio, era completamente chiuso. E allora sempre tramite quella personale la portavo e a strumento me lo faceva, capito? Me lo regolava bene, rimaneva sempre sulla scala rossa e andava bene. KK, avanti Daniele, fammelo sentire un'altra volta, poi chiudo, dai. Quindi puntello, là. Guarda, adesso si è regolato bene. Adesso puoi puntellare veramente. Lascialo così, sotto la I, non solo l'hai messo. Puntella, processore attaccato e tu sei... Una cannonata, Alghero Disini, scherreggia forte. Già trudieggia, già. Bene, dai che vi saluto, che mi stanno fischiando lassù. Ciao Antonio, Daniele, Claudio, Ventura Ascoltoni. Un abbraccio, quelli per me esecutivo. Sì, 5 stelle, dai, a ruota che qua è pronta già la cena. Ciao Antonio Mombolo, ciao Antonio Riserva, ciao Luca se c'è ancora, chiunque sia in ascolto. A te Daniele, saluto a mamma e a Lorena, ragazzi a tutti, lasciala così la radio che va benissimo, ok? Buona serata a tutti! Ciao Doppio, ciao! Ciao Michella! Ciao, ciao! Ciao a te Antonio, ciao anche a te o Claudio! Vai! Avanti, Daniele! Parla tua volta, cazzo! Cosa hai detto tu? Ho detto che vi saluto tutti! Ok, fammi sentire domani, se ce la fa passare, ciao! Ciao, ciao, ciao a tutti, saluto anche a Gianni Doppio, vedi la novità di sì, ciao anche a te, bretella. Vai Daniele, chiudo, a dopo, ciao. Ehi, andò bene a me, vai, ciao Cla, contrattami i saluti, ciao Antonio, anche io sto chiudendo, vai. Che vado a fare carichetta, e anche ciao Gianni. Riprendi Luca e fai girare, o tu, o Luca o Antonio, vai. Ma già ci scendi bene Daniele, cavolo. Un ritocchino lì, così al volo telefonicamente abbiamo fatto lui. Adesso si sta spingendo, la grande pure. Vabbè, Claudio Sparviero, criticone, gas, però ne sa troppo. Dai, ci sentiamo dopo, ciao a tutti, buona cena. Sai che ti bacia il culo, che ci fa delle critiche, cosa ne vai. Ok, ciao Cla, ci sentiamo. Ciao Antonio, ci sentiamo, ciao a tutti. Sì, ciao per il re. Ciao, Bricicchè. Sì, ci sentiamo dopo con Antonio, ciao. Sono qua. Riguardo, vabbè, sono anche la TV, un po' al computer, insomma, un po' al telefono. Ma la tacchino. Quattro cose, cazzo, non posso fare assieme. E ma infatti, ma cos'è la voce? Ciao a tutti, a dopo, ciao. Cappa, cappa, vai. Ok, ci sentiamo. Io pensavo... Daniele! Anche Daniele ha chiuso, non tu. Ah, Sarrando va. E cappa. E beh, lui. Ah, per pure Gianni, beh. Sì. Grazie a Gianni. E sta la bella onda, non si comprende nulla, non se ne è compreso. Mi sa che Gianni ha Sarrando. Picchia. Questo tipo sta vendendo un 140 e 140 S, 590 euro. Chi c'è un bacio a me? Se andiamo in fondo 340, ma stai scherzando? Sì. Vabbè, forse lui è un pochettino caro, però in genere il prezzo suo sarebbe intorno ai 500 euro la versione S. La versione S è una cagosa. Perché quale differenza c'è la 140 normale e la 140 S? Allora, dovrebbe essere così se non mi ricordo male. Uno c'ha, uno è, non ha il coso, non ha il l'accordatore, l'altro c'è l'accordatore. Capito? È un precipizio. E poi c'ha qualche cosa in più, penso che abbia. Allora l'accordatore ce l'ha il 440, non il 140. 140 non ce l'ha l'accordatore. Allora, la versione S sì. Non è, dopo lo chiediamo a Claudio. Cappa, te lo puoi prendere io. Sei sicuro? No, questo qua c'ha la spedizione della Santiago Sassari. Poi c'è il Chiesa 790, 940. Questo no. 6,90 MC60 MC60 scusa così poco che supporto e microfono Kenwood MC60 MC90 7,89 e 3 euro di spedizione. Ma io supporto solo un vero microfono. Oh, eppure io mi ricordo, io ho avuto 140 che era di Claudio, io mi ricordo che cioè il mio non aveva l'accordatore e 140 non c'era solo il 440 l'accordatore, è il 430 mi pare. Insomma, non me lo ricordo bene, però mi paga la versione S, cazzo, è un casino. Aspetta, che lo guardo, un attimino lo guardo su internet. Cos'hai detto che è? 140, no? Eia, 140S. Ma è tanto, non l'ha. Sto leggendo, allora, guarda, Ah, c'era, fidati che c'era. E già entra a Claudio dopo. Se io dico che ce l'ha, ti fidi. Non è altro, visto. Solo il 440. C'era solo il 440 e basta. Capo, allora sarà così, io non me ne ammento sempre la sigla. Però mi ricordavo sempre della versione S che era così. Hola, chicos. Luca, ci sei? Ora, un pochettino meglio, sono tra 50 anni. Sì che ci sono qua. Capo, gli ha abbassato un po' la potenza, gli ha abbassato, là. No, è troppo. Ora. E gli abbassa la voglia. Lo squelci in AM è il tuo, tu. Come? Agisce, lo squelci in AM è il tuo. Dovrebbe agire, se no l'ho tenuto aperto io. E prova a chiuderlo a vedere. Ma la potenza. Lo squelci. Fammi un video, Anto, me lo mandi su WhatsApp, poi vediamo quanto arrivo. Cappa. Questo qua mi sta arrivando sul più. Cioè tra il più e il 3. E chi io? E tu, Dico, non sei pronto, mi mandi il video, dai, faccio un passaggio, me lo mandi su WhatsApp. Sì, sta facendo la ruzzi, non qui. Lui prova a vedere. Un po', attenzione Bombolino, Antonio, e poi Bombolino, se ascolti qua, Monte Rosello. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, guarda un po'. Hola, hola. E io che te l'ho mandato, eh. Ah, poi arrivo 9,25 a picchi di 30, così è. Mari, tocchi giù il 40. No, su 40 non lo vedo. Aspetta un attimo, però la parte di Anto, un attimo, aspetta. Sì, dai, è così, poche parole, dai. Capito lui. Ora, ora. 9,20, Anto, picchi 9,30. Non ci arrivo a 40, oltre 30, dai. Poco più del 30. Il picco di modulazione però. Capo, no, qua arriva, con la potenza arriva Claudio. Tocca il 40, tocca, capito? Vabbè, ma sono con 5 watt, tu capito? Se metto pure io 20 watt, ti arrivo pure io tranquillamente. Capo, non è poco, mi. Io sto dando poca potenza, Sto dando... 50 watt, dai, sto dando molto molto di meno. Guarda sta fava. Ora arrivare così, boh, sono sufficienti, basta così. A voglia, è arrivato bene. Capa, cosa è canta bocca di vidratta? Nuda, siamo qua tutti i vizini, usiamo, ma la potenza si usa fuori, capito, non qua. Fuori Sassari, poi se c'è propagazione in continente, capito, capagava, in Spagna. Vabbè, poi se c'è propagazione buona, bastano pochi watt, arriva lo stesso. Andiamo. Capo, no, ma io non ne utilizzo tanto lui. Tanto cosa vuoi trattare? Infatti, siamo tutti vicini, siamo, va. Capo, no, io in città la uso così, la uso, perché tanto non ce n'è bisogno, non c'è assolutamente bisogno di spingere tanto. Si spinge la luce, sa. Aspetta un attimo, Marti. Capo, vai. Andiamo, chiede. Come Luca? Lu, dai, buonanotte, io devo lasciarti, perché devo chiudere. A chi domani mangiare, tocca pigiamini, ghizzo, mamma mia, che arrivi rugami o tutte cose. Dai, buonanotte, ci sentiamo. Luca?